Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il Polo Nord, con la sua sterminata distesa di ghiacci, dossi nevosi, crepacci, si presenta a chi lo osserva come un'irreale e gigantesca pianura bianca, una sorta di luogo dell'anima davanti al quale gli esseri umani non possono che sentirsi schiacciati e infinitamente piccoli. Il Polo, proprio per questo motivo, è sempre stato un luogo di misteri e un terreno di sfide. Esso sembra richiamare uomini coraggiosi e avventurieri di tutto il mondo a esplorare i confini dei propri limiti, a scendere nelle profondità del proprio cuore in un viaggio inevitabilmente esteriore e interiore. Oggi Destini Incrociati vi racconterà la storia di due uomini i cui destini si sono incontrati proprio qui, nelle severe regioni polari, in un'epoca in cui il concetto di ignoto era più forte e rendeva ogni sfida ancora più eroica. Andiamo indietro, negli anni 20. Italia, 1926. Sono passati 4 anni da quel 28 ottobre 1922, il giorno in cui le camicie nere di Mussolini hanno marciato su Roma e il Duce si è visto conferire l'incarico di formare un nuovo governo. In questi 4 anni, il fascismo e Mussolini hanno consolidato il proprio potere, spazzando via ogni forma di opposizione, creando di fatto i presupposti per uno Stato totalitario e per una dittatura. Il momento di svolta è nel 1924, quando le squadre d'azione del partito fascista assassinano Giacomo Matteotti, antifascista che alla Camera aveva accusato il governo di essersi servito di brogli elettorali. Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso. È una provocazione! La giunta delle elezioni si è proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti, anche di più, non li ha ottenuti di fatto e liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Basta, la finisca! Il 10 giugno 1924 Giacomo Matteotti viene rapito a Roma. Il suo corpo è ritrovato in stato di decomposizione il 16 agosto alla macchia della Quartarella, un bosco nel comune di Riano, a 25 km da Roma. Il fascismo, con la violenza, mette il bavaglio al paese. Un timido accenno di protesta delle opposizioni viene messo a tacere con le cosiddette leggi fascistissime e l'inizio del totalitarismo. Comunque si svolgono gli eventi! Noi desideriamo che non si parli più di fratellanze, di sorellanze, di cuginanze e di altre tali parentele bastarde! Il fascismo porta con sé una nuova iconografia e un nuovo repertorio mitologico che si ispira in larga parte all'età classica e all'impero romano. Il fulcro della propaganda è l'esaltazione dell'italianità, della forza, della vitalità del bel paese sotto il controllo del duce e delle sue pulsioni vitalistiche. Vengono incentivate quindi imprese che possono celebrare i fasti e la gloria dell'Italia nel mondo. Al di là delle vicende belliche, il primo territorio di conquista naturalmente è lo sport. Il calcio, innanzitutto. Nel 1934 il regime organizza la seconda edizione dei campionati del mondo. La nazionale, guidata da Vittorio Pozzo e aiutata da qualche arbitraggio favorevole, si aggiudica il titolo. Nel 1936 arriva il titolo olimpico. Nel 1938 in Francia il bis mondiale. Meazza, Caligaris, Alemandi, Combi, Orsi. entrano nella storia dello sport e del ventennio. La mia buona mamma amò il papà che con l'angor cantava serenata al suo balcone. Invece adoro un ragazzone tutto ardore che sa giocare al gioco del pallone. Lui mi vuol bene, non me lo sa dire, ma se m'abbraccia me lo fa capire. Il mio amore è centro attacco, nelle gambe non è fiacco. Accanto alle imprese calcistiche, altre imprese sportive. Nel 1936, in particolare, alle Olimpiadi di Berlino, non arriva solo l'oro nel calcio, ma ben 36 medaglie complessive, di cui 12 d'oro, un primato che resterà tale fino agli anni 60. Al di fuori dello sport, il regime cerca imprese altisonanti che possano far risuonare nel mondo il nome di Mussolini. Imprese di conquista, per mare, per terra e nel cielo. Gli oceani vengono assaliti dalla retorica fascista attraverso un gigante, un colosso destinato a restare nell'immaginario collettivo, il transatlantico Rex. Eccolo! Babbo! Babbo! Il Rex! Il Rex! Viva il Rex, la più grande realizzazione navale del regime! Il nastro azzurro è il riconoscimento che dal 1910 viene assegnato alla nave passeggeri che attraversa l'Atlantico nei due sensi in minor tempo. Nel 1929, ad aggiudicarselo, è una colossale nave tedesca, il Bremen. 51.656 tonnellate di stazza lorda, varato nel 1928. Con i suoi 135.000 cavalli di potenza, il Bremen si è conteso il primato col gemello Europa, un altro transatlantico tedesco. Vanta un record di 4 giorni, 16 ore e 15 minuti, con una percorrenza media di 28,51 nodi. Il Rex, il più grande transatlantico italiano mai costruito, viene assemblato ai cantieri navali di Sestri Ponente, l'allora Ansaldo, tra il 1930 e il 1931. Il 1 agosto di quell'anno viene varato dal re Vittorio Emanuele III e dalla regina Elena. Il Rex era lungo 268 metri e aveva una potenza di 135.000 cavalli. L'11 agosto 1933 parte da Gibilterra a tutta velocità per strappare il nastro azzurro ai tedeschi. Mentre a bordo un nutrito gruppo della svagata borghesia dell'epoca cena, danza e festeggia, del tutto ignara della sfida, il comandante Tarabotto, marinaio ambizioso e donnaiolo, guida questo gigante dell'oceano verso il record. Dopo 4 giorni, 13 ore e 8 minuti, il Rex, dopo aver fatto tappa a New York, rientra a Gibilterra. A 28,92 nodi, il Rex fa il suo ingresso nella baia con oltre 12 ore di anticipo sul previsto. Il fascismo posa un altro mattone per costruire il proprio pomposo gigantismo. La corsa alle imprese del regime riempie anche i cieli. Italo Balbo è il grande protagonista con i suoi duelli con Francesco De Pinedo a colpi di trasvolate oceaniche. Intanto Tito Falconi vola a testa in giù per 3 ore. Francesco Agello vola nel 34 a 709 km con un Macchi. Mario Pezzi raggiunge nel 1938 il record di 17.000 metri di altezza con un Caproni. Umberto Maddalena, quello per la durata di un volo, 67 ore. Alla data del 1939, l'Italia detiene 33 record da Guinness dei primati. Sempre per i cieli passa alla ricerca di un'altra impresa, un'impresa diversa, che non fa della velocità o delle dimensioni il proprio elemento essenziale. È un'avventura alla scoperta dell'ignoto e per questo più affascinante e più impermeabile al trascorrere del tempo. Si tratta della conquista e dell'esplorazione del Polo Nord. Si tratta della storia che vi raccontiamo oggi. Si tratta ovviamente del nostro primo personaggio, l'uomo su cui il regime investe per l'esplorazione dell'oceano. Il suo nome è Umberto Nobile. Umberto Nobile. Il suo mezzo di conquista sarà un dirigibile. Chi ti ama, e tra i petali del fior, sorride per te l'amore di ogni sorriso. C'è il paradiso. C'è un po' di cielo, un po' di mare. Umberto Nobile nasce a Lauro il 21 gennaio 1885. Si laurea a Napoli in ingegneria industriale meccanica con il massimo dei voti e consegue anche un diploma in elettrotecnica. Si specializza in progettazione di velivoli aeronautici, in un settore dell'industria in netta espansione nell'Italia degli anni 10, un paese che con la guerra di Libia scopre l'imperialismo e si prepara a vivere il dramma della Prima Guerra Mondiale. Nobile è un uomo brillante, creativo e scrupoloso. Nel 1911 vince un concorso a Roma e frequenta un corso ufficiale dell'esercito di costruzioni e progettazioni aeronautiche. Di fatto Nobile entra nell'aeronautica militare italiana. Durante la Prima Guerra Mondiale, Nobile viene impiegato nelle retrovie in fase di progettazione e costruzione del materiale bellico per il conflitto. È durante questi anni però che l'ingegnere si appassiona a un diverso tipo di velivolo, il dirigibile. Nobile lo concepisce non solo come mezzo di trasporto in sé grandioso ed elegante, ma vi intravede le enormi potenzialità scientifiche. Come ricorda lo studioso e conduttore televisivo Piero Angela, può essere impiegato con ottimi risultati nelle grandi imprese e nelle esplorazioni. Il dirigibile, proprio per le sue caratteristiche, permette di spostarsi agevolmente da un punto all'altro, di compiere osservazioni impossibili con qualunque altro mezzo. Nel 1916 Nobile completa il progetto di un nuovo dirigibile per l'esplorazione del mare. Lo chiama semplicemente O. Subito dopo la guerra, Nobile assume la carica di direttore del più importante stabilimento dell'aeronautica militare in Italia, poco fuori Roma. È ormai uno degli uomini più importanti dell'apparato militare italiano, ma è anche un uomo curioso e assetato di conoscenza e di perfezione. Così, nel 1922, decide di trascorrere un po' di tempo negli Stati Uniti per ampliare e migliorare la propria preparazione. Qui collabora con l'aeronautica statunitense alla costruzione di un nuovo aeromobile. Qui, soprattutto, inizia a progettare il suo nuovo sogno, un dirigibile semirigido, colossale, elegante, pensato per trasportare comodamente centinaia di passeggeri. È il mitico dirigibile Norge. Un breve ricordo del carattere del generale Nobile ce lo dà Gianni Bisiak, grande giornalista televisivo che lo ha intervistato negli anni 60. Aveva un carattere che ad alcuni non piaceva, quindi aveva amici e nemici. Con Mussolini alzò la voce e questo coraggio lo pagò molto caro. La costruzione del Norge, in ogni caso, fa salire enormemente le quotazioni di Umberto Nobile presso il regime mussoliniano. Costruito nello stabilimento di Ciampino, lungo 106 metri e largo 20, il Norge è un colosso che non può non piacere al duce e ai suoi fedelissimi malati di gigantismo. Il 13 marzo 1924, davanti alle massime autorità dello Stato, il dirigibile compie il suo primo viaggio. È a questo punto che la vita di Umberto Nobile sterza, cambia grazie a un incontro. Un incrocio suggestivo che porta quest'uomo poco più che trentenne, già vicino all'apice del successo, a mettersi in gioco e ad entrare nel mito rischiando in prima persona ben più della propria semplice carriera. Proprio in quegli anni, infatti, fanno il giro del mondo le imprese di un altro grande esploratore e aviatore che tenta in diversi modi di conquistare la propria ossessione, il Polo Nord. Imprese che non passano certo inosservate a un uomo attento e curioso come Umberto Nobile. L'uomo di cui i giornali parlano è un esploratore norvegese ed è il nostro secondo personaggio di oggi. Si chiama Roald Amundsen. Roald Amundsen. Andiamo a conoscerlo. Nato a Borge, in Norvegia, il 16 luglio 1872, Roald Amundsen aveva organizzato la sua prima esplorazione polare nel 1903, a soli 21 anni, alla ricerca del passaggio a nord-ovest. Lo fa con una piccola baleniera di 47 tonnellate, il Gjøa, ancora oggi visibile in un museo di Oslo. La spedizione ha successo e Amundsen diventa famoso. Dopo questo primo trionfo, Amundsen acquista il Fram, una goletta a tre alberi di 420 tonnellate, e pianifica la sua prima spedizione verso il Polo Nord. Quando scopre che un esploratore americano, proprio negli stessi giorni, lo sta precedendo, dirigendosi a sua volta verso il Polo Nord, cambia i suoi piani e tenta di arrivare prima degli inglesi, guidati dal capitano Scott, al Polo Sud. E ci riesce. È il suo secondo trionfo. La sua impresa fa il giro del mondo, ma non placa la sua sete di conquiste. In particolare, Amundsen ha un'ossessione. Il Polo Nord vuole il successo anche lì. Così, dopo la Prima Guerra Mondiale, tenta la trasvolata aerea del Polo Nord. Acquista due idrovolanti e decolla dalla Baia del Re, in Norvegia, il 21 maggio 1925. Le pessime condizioni del meteo lo costringono ad atterrare sui ghiacci. Lo recupera una nave. L'impresa è fallita, ma solo per il momento. È proprio la notizia di questo fallimento che colpisce Umberto Nobile. L'ingegnere italiano, analizzando nel dettaglio l'insuccesso di Amundsen, si convince che il dirigibile potrebbe essere il mezzo migliore per sorvolare i ghiacci. Parte per Oslo per convincere quell'inflessibile esploratore norvegese. I due si accordano. Riescono, condividendo i rispettivi contatti, a trovare un finanziatore che sponsorizzi l'impresa. Si tratta dell'americano Lincoln Ellsworth. Forti del sostegno economico di un privato, i due riescono ad avere l'appoggio dei rispettivi stati. La spedizione può essere programmata. La partenza viene prevista per il 3 aprile da Ciampino, alla presenza del duce e delle autorità fasciste. Il maltempo costringe a un breve rinvio. È il 10 aprile 1926, qui a Ciampino il tempo è comunque pessimo. Il rinvio non è servito a molto, ma il Norge sta partendo per il suo viaggio. A bordo ci sono già Nobile e l'americano Ellsworth. Dopo uno scalo in Inghilterra, tra 3 giorni è previsto l'arrivo a Oslo, dove si imbarcherà anche Amundsen. Il loro non sarà un viaggio verso il polo, ma verso il destino. Lo scopriremo insieme, qui, tra poco. Viaggiare insieme è come un tango, come strade che si incrociano. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati stiamo raccontando l'avventura di una grande sfida geografica, la conquista del Polo Nord. È il 1926. L'Italia è nel pieno del regime fascista, che ha bisogno di grandi imprese per nutrire il proprio pomposo apparato retorico. Un giovane ingegnere, Umberto Nobile, grande innovatore dell'industria aeromobile, è il portabandiera dell'Italia. Con lui un altro grande scienziato ed esploratore, Roald Amundsen. Il loro incontro dà a entrambi la forza di tentare l'impresa. Il 10 aprile il dirigibile Norge, progettato da Nobile, parte per la Norvegia, dove caricherà Amundsen e si dirigerà verso il Polo. Il Norge è atteso alla Baia del Re, nelle isole Svalbard, da dove punterà verso il Polo. Qui salgono a bordo Amundsen e il resto dell'equipaggio. Un equipaggio cambiato più volte durante le tappe di avvicinamento è composto da 6 italiani, tra cui Nobile col ruolo di comandante, 8 norvegesi, tra cui Amundsen, 1 statunitense, cioè il finanziatore Lincoln Ellsworth, e 1 svedese. Sotto di loro l'infinito ed emozionante mare bianco del Polo Nord. È una traversata che all'inizio procede quasi senza ostacoli. Un'avventura straordinaria che si complica nella seconda parte, come possiamo capire attraverso la voce dello stesso Umberto Nobile. Furono 2 giornate di navigazione. E una di queste giornate ci fu il pericolo continuato e grave della proiezione di ghiaccio che si era formato un po' dappertutto sulle parti esterne dell'aeronave e che di tanto in tanto, distaccata dalla forza, dalla pressione del vento, cadevano nelle eliche e le eliche, come fa una fionda, le proiettava contro il morgo. Abbiamo avuto degli squarci gravi della chiglia dell'aeronave e anche nella camera d'aria e per fortuna si potettero riparare. Il Norge raggiunge il Polo Nord all'1:30 del 12 maggio 1926. Le bandiere norvegese e italiana vengono gettate sul vertice settentrionale del mondo. Nel 3° giorno di trasvolata, Nobile e Amundsen decidono di far rotta verso il Canada per sistemare alcuni problemi del dirigibile. Ma la giornata più tremenda di navigazione fu la 3ª e ultima, perché sullo stretto di Bering ci imbattemmo in una tremenda tempesta. E corremmo dei seri rischi. Ma alla fine, dopo 71 ore di volo e dopo aver percorso sulla calotta artica ben 5.300 chilometri, potemmo atterrare felicemente a Teller, un minuscolo villaggio eschimese di 55 abitanti che è posto a nord-ovest di Nuuk. L'impresa è stata portata a termine. Tuttavia, la trasvolata del Norge a causa dei tempi ristretti ha necessariamente escluso qualunque programma di ricerca scientifica. Circa 4 milioni di chilometri quadrati della calotta polare restano inesplorati. Per Umberto Nobile, intanto, arriva il momento della gloria, come ricorda Gianni Bisiak. Sì, qui vediamo gli italiani d'America che sono entusiasti di Nobile, gli danno le chiavi della città di Boston e di New York. Ecco, qui c'è il sindaco di Boston che lo accompagna in carrozza attraverso la città, e poi qui invece la Fifth Avenue a New York, e questo è il presidente Coolidge a Washington che lo accoglie. C'è anche la cagnetta Titina. Qui vediamo il conte Biancamano, il transatlantico sul quale Nobile torna a Napoli. Sono qui i suoi nipotini, i figli del fratello, e avrà una grande accoglienza da tutta la popolazione napoletana. E poi il ritorno a Roma, questa è la stazione Termini, e va a Piazza Colonna, dove allora c'era il Presidente del Consiglio. Mussolini sul balcone lo presenta alla folla, vedi, impazzita, e lo stesso Mussolini gli consegna la promozione a generale dell'aeronautica. Durante questi momenti di gloria nasce in Nobile un'idea ambiziosa, una spedizione scientifica che possa davvero portare alla conoscenza e all'esplorazione del Polo Nord. Non può però più contare su Amundsen. L'esploratore norvegese, infatti, lo accusa di volersi intestare l'intero merito dell'impresa. Tra i due nasce un contenzioso che sembra separare i loro destini. Non sarà così. L'impresa di Umberto Nobile inizialmente non incontra i favori del regime. A Mussolini non interessano i risvolti scientifici dell'impresa, importa solo la risonanza della retorica. E quella è già stata abbondante nel 1926. Nobile è costretto ad attingere da fondi privati e, grazie al sostegno di un gruppo di industriali milanesi, porta a termine nel 27 la costruzione di un'aeronave gemella del Norge, l'N4. Nel frattempo, istituti scientifici italiani, cecoslovacchi, statunitensi e inglesi, spinti dalla grande fama internazionale di cui gode Nobile, mettono a disposizione i loro migliori strumenti di rilevazione. Alla fine di marzo del 1928, ogni dettaglio della spedizione viene definito. Il dirigibile N4, ribattezzato Italia, avrà 13 membri d'equipaggio tutti italiani. A questi si aggiungono 3 scienziati e 2 giornalisti. La spedizione comprende in tutto 18 uomini, con Nobile naturalmente come comandante. Dopo il trasferimento da Roma a Milano, l'Italia parte dall'aerodromo milanese di Baggio il 15 aprile 1928. A salutarlo una folla enorme. Ricorda quel momento Maria Nobile, figlia del generale. Mio padre venne a salutarmi. E nel baciarmi, questo lo racconta poi dopo, avvertì come un tremore al cuore, come un presentimento di disgrazia. Con un volo di circa 6.000 chilometri, facendo tappa a Stolpe e a Vadso, l'Italia giunge alla Baia del Re il 6 maggio. Per Umberto Nobile l'impressione è quella di andare incontro al destino. Roald Amundsen osserva in silenzio dalla sua Norvegia lo sviluppo dell'impresa. Il primo volo di esplorazione delle regioni polari si conclude in fretta, a causa di avversità atmosferiche e guasti tecnici. Il secondo dura 3 giorni, con un percorso di circa 4.000 chilometri sui territori inesplorati a nord-est delle isole Svalbard. Vengono definiti gli estremi confini occidentali della Terra del Nord. Viene dimostrata l'inesistenza della Terra di Gillis. E vengono effettuati diversi rilevamenti sulla Terra di nord-est. Il terzo volo deve esplorare la parte settentrionale della Groenlandia alla ricerca di terre emerse, per dirigersi quindi sul polo. Alle 4:28 del 23 maggio 1928 l'Italia si alza in volo, nonostante una violenta perturbazione. Raggiunge il Polo Nord alla mezzanotte fra il 23 e il 24 maggio, ma non riesce ad atterrare. Nobile ordina di intraprendere la via del ritorno. Il destino, però, è in agguato. Camminato per le strade, col sole dei tuoi occhi, ci vuole un attimo per dirsi addio. Spero che bella quiete sulle cime, mi freddi il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio. Per questo troppo amore per noi. Destini incrociati. Oggi destini incrociati al Polo Nord, sul dirigibile Italia, guidato da Umberto Nobile. Il suo incrocio di vite con Roald Amundsen l'ha portato 2 anni prima a sorvolare il vertice del mondo sul dirigibile Norge. Ma i rapporti tra i due si sono interrotti e ora Nobile guida una spedizione interamente italiana. Una spedizione che però tra il 23 e il 24 maggio 1928 si trova in grosse difficoltà a causa di una tempesta che investe l'aeromobile. Alle 10.30 del 25 maggio 1928, il dirigibile Italia si schianta sui ghiacci del Polo Nord. È un impatto tremendo. Nella collisione, 10 uomini vengono sbalzati e cadono dalla navicella di comando sui ghiacci. Sopravvivono in 9, tra cui Nobile, con fratture agli arti. Il dirigibile si risolleva lentamente e scompare nella fitta nebbia. Di esso nessuno avrà più notizie e nemmeno dei 6 uomini rimasti a bordo. Scompaiono per sempre. L'impatto riversa sui ghiacci anche numerose attrezzature, con esse viveri, ma soprattutto la tenda preparata per la discesa sul polo e la radio di soccorso Ondina 33. La tenda rossa diventa un indispensabile rifugio per i naufraghi e sarà un punto di riferimento per i soccorsi. Tra i superstiti c'è anche un radiotelegrafista. Si chiama Biaggi. Monta immediatamente l'antenna della radio e lancia l'SOS. Sembra inutile, come ricorda direttamente lo stesso Umberto Nobile. Ma il fatto è che noi continuammo questi sforzi nel trasmettere i nostri messaggi per giorno e giorno, continuamente, dalla mattina alla sera. E questi messaggi non erano intercettati. La stazione ricevente funzionava perfettamente bene, tanto che noi tutte le sere potevamo sentire il bollettino stampa emesso da San Paolo, che ci metteva a corrente di tutte le notizie italiane di fuori d'Italia. Il nostro SOS non veniva intercettato, non veniva ascoltato. Nessuno dava segni di vita con noi. 3 dei naufraghi, in preda alla disperazione, si lanciano a piedi verso una meta irraggiungibile. Nessuno li ritroverà più. In patria l'equipaggio viene dato per disperso. Sono ore di angoscia per i familiari, come ricorda la figlia del generale Nobile. Io ero una bambina, ma per quanto bambina, vedevo anche gli altri quanto erano naturalmente preoccupati. Quindi li guardavo, li spiavo per vedere dal loro viso. Però mia madre, come dire, lei ha avuto una grande forza, veramente è stata all'altezza di questa tragedia. Dopo 5 giorni, finalmente, il messaggio d'aiuto viene captato e fa il giro del mondo. Non sono operazioni di soccorso semplici. Su quei ghiacci nessuno è mai atterrato. E bisogna fare in fretta. Il messaggio, naturalmente, arriva anche in Norvegia. Roald Amundsen lo raccoglie. E non può fare a meno di partire, come racconta un giornale locale. Tra me e Umberto Nobile ci sono stati degli screzi, ma siamo stati lassù insieme. E questo ci ha legato per sempre. Sento l'obbligo di dare il mio contributo a questa causa. Non ha bisogno di parole mai. Con uno sguardo solo capirai. Oh. E dopo no, lui ti dirà di sì. Un amico è così. Amundsen parte per il polo. Si offre volontario alla spedizione francese, con l'idrovolante LATAM 47. Proverà a raggiungere i naufraghi. Amundsen ha già sorvolato il polo con un idrovolante, sa cosa significa, conosce i rischi che comporta, ma vuole salvare il vecchio amico. e decolla insieme ad altri tre uomini da Tromsø nei primi giorni di giugno del 1928. Nel frattempo è giunta vicino alla tenda rossa la nave d'appoggio Città di Milano, che stabilisce un contatto radio stabile con i naufraghi. La sera del 23 giugno, due aerei svedesi raggiungono la tenda rossa. Uno, un Fokker 31, guidato da uno svedese chiamato Lundborg, riesce ad atterrare sulla pista di neve, ghiaccio e a trarre in salvo Nobile, che dovrà poi dirigere dalla base svedese le successive operazioni di soccorso degli altri superstiti. Lundborg è arrivato prima di Amundsen, che vuole comunque dare il suo contributo alla causa, ma il destino si mette di traverso. L'idrovolante dell'esploratore norvegese scompare, nel nulla, tra i ghiacci. Quella distesa bianca che l'aveva ossessionato e che l'aveva unito a Umberto Nobile, ora lo inghiotte e se lo porta via, per sempre. Il corpo di Roald Amundsen non verrà mai più trovato. Per Umberto Nobile il rientro è traumatico. Dopo 48 giorni anche i suoi compagni vengono tratti in salvo. Partita come un'impresa trionfale, la spedizione del dirigibile Italia si è trasformata in una tragedia. Il suo vecchio amico e rivale norvegese è sparito per sempre. Per venirlo a cercare, per giunta. E come se non bastasse, arrivano le accuse, infamanti, inaccettabili. In Italia c'è chi lo taccia di essersi comportato con superficialità verso i suoi compagni d'avventura e di averli trascinati nei guai. Il regime fascista, che tanto l'aveva osannato in precedenza, ora lo accantona e apre addirittura un'inchiesta. Umberto Nobile si dimette e va in Unione Sovietica a progettare dirigibili. Avrà una parziale riabilitazione solo dopo il Secondo Conflitto Mondiale. Il destino ha insomma unito e separato le vite di due straordinari avventurieri, due uomini di scienza e di coraggio, che hanno visto nei ghiacci del Polo Nord il proprio limite interiore da accarezzare e da sfidare. Dedicato a Umberto Nobile e Roald Amundsen, alla loro storia e alla loro amicizia, c'è oggi un monumento che ricorda la loro eccezionale vicenda. Il CNR ha eretto alle isole Svalbard una torre per l'osservazione di fenomeni idrogeologici del Polo Nord. Una costruzione di grande rilevanza scientifica, che si staglia nel silenzio e nella luce irreale del vertice del globo. È stata chiamata Torre Nobile Amundsen. Scienza ed emozione. Il miglior modo, insomma, per onorare il ricordo di questi due indimenticabili ed eleganti scienziati e avventurieri. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.